Runtime Radio presenta. Ehi, presente, presente. Ma sta sempre a presentare. Ma che cacchio sei presente? Ma che ne so, ma lascia fare, fallo di mastica. Gente, stiamo calmi, fatemi fare. Ehi ragazzi, un po' di calma, fatelo fare. OGM. Oddio, e mo come lo chiamiamo quest'anno? Signora, ma lei l'ascolta OGM? Oggi che? Ma che? No, no. Signora! E allora non mi volete proprio far lavorare? Questa non è OGM come la conoscete voi. Ma come? Ma che Ma no? Ma che? Ah? Calla, guardavamo a finire. Ah? No. Questa è OGM Soch Media Edition. Ma Soch, ma che è stata stronzata? No? Soci chi? OGM, Soch Media Edition. Va bene, altra cazzata. Noi basta con tutto sto casino. Ma la gente qua deve dormire. Ma non potete fare come tutti i ragazzi una volta che si drogano. No, devono mettere a fare radio il casino. E basta, no, basta. Buonasera a tutti carissimi amici di Runtime Radio, bentornati qui subito dopo le 9, alziamola un pochino, poi l'abbassiamo, poi alziamo un pochino, facciamo un po' di casino qui su OGM Soch Media Edition. Bentornati come tutti i lunedì sera, tranne l'altra volta che era martedì sera, perché siamo qui, insomma ci dovevamo stare. Questa è la quinta versione della sigla, non fate conto a quella dell'altra volta che era uno scherzino, una cosa così. Insomma, abbiamo tagliato, tra una cosa e un'altra siamo già arrivati a 30 secondi di meno complessivi, quindi insomma, indovinate e vincerete la felpa. Felpa che il nostro amico, già mio amico Shuren, insomma, ha mostrato, dopo ve la linko, magari qualcuno se la compra. Walter Sbano! E allora quindi c'è questo film che si chiama Creatures of the Past, giusto? Siamo qui per questo. Sì. Tra l'altro ci hanno fatto molti complimenti per la puntata. Beh ragazzi, abbiamo raccontato alto cinema. Esatto, poi noi ce l'avevamo in canna da anni sta cosa, quindi... Marco Gualdi! Io invece no, francamente l'ho già dimenticato quel film. Per cui l'avevi dimenticato il film? L'ho già dimenticato e per cui è il momento di rivederlo. Beh, potrebbe essere un'idea. Beh, potrebbe. Io credo che provochi delle ischemie proprio al momento in cui transitorie, però. Transitorie, che però ti cancellano, cioè ridistruggono la memoria a breve tempo. La memoria. Comunque, Puccio questa sera non c'è per ora, poi dopo forse ci raggiunge. Invece c'è Francesco Lobby Frontali. Buonasera a tutto. Buonasera, ma siamo sicuri che è sera? Sì, è sera, sì, sicuramente. Ma chi cacchio ha chiesto a te? No, cioè, certo. Non ha chiesto niente. Comunque questa va di, cioè, ah sì, che bello comunque che dopo una settimana si è un po' mischiato tutto, siamo, purtroppo siamo ancora qua, soprattutto che vuol dire che sono vivo. Mi sei dispiace vivo. Che lo siate pure noi, vabbè, ok, grazie. Ma si può avere tutto, dai, che dite grazie. Certo che se lo metto nello stesso coso dove c'è il brano è un gran casino, però vabbè, grazie Francesco di aver, insomma, di essere qui con noi. Però adesso smettiamola con questa cosa, bella, ok, è finita, vedi, avrei dovuto aspettare solo... Ah, è finita, ciao! Poco tempo, avrei dovuto aspettare, quindi lo facciamo risalutare, Francesco, pure... Ma vabbè, no, cazzi. Io sono sicuro che se lo fai risalutare riesci a dire esattamente quello che ha detto, esatto, prima. Esatto, perché lui è una persona molto precisa, esatto, poi dopo gli facciamo anche... i suoi interventi, li legge, come... Lui come, si riscrive prima, come poi una... vi domandate, perché sta Francesco sta di sta cosa che non c'entra un cazzo? Perché lui si è già scritto prima gli interventi. Ormai si è scritto quello, quindi deve leggerli, certo. Cioè, è vero, comunque... Gualdi, ce l'ho con te subito. Ecco. Diciamo una cosa che oramai è ufficiale, lo possiamo annunciare. Porca troia, dai, qual è? Vediamo lo possiamo, the perché past, l'abbiamo no. detto, insomma, l'abbiamo traccheggiato, si vociferava nell'aria, ma pare che oramai è quasi sicuro, manca solo una fotografia. Guardi, sei fidanzato. No, poteva essere una bella notizia. Poteva essere, ma insomma, adesso non esageriamo, no? Cioè, troppo. Però, insomma, troppa roba, tutta insieme. Manca solo una fotografia all'annuncio ufficiale. Ufficiale di un di una nuova trasmissione. Esatto. Dillo tu perché. Che si chiama Ho visto cose. Ho visto. Ma a parte dategli un nome perché l'avete chiamato. Ho visto cose. Ho visto cose. Si chiama così. Si è sempre chiamato in questo modo. Sì, mi è vero. Solo questo. Ho visto cose. Di che si tratta? Di due persone che vedono che cose e ne cose parlano e ne devono parlare per forza, okay. In maniera compulsiva e assolutamente arbitraria. Ok, diciamo che insomma tra poco uscirà questo fantastico podcast che insomma poi insomma vi daremo tutto quanto, è una sorta di una trasmissione di quasi recensioni su ogni cosa, perché poi può essere un cibo, anche perché se si vedono delle film, cose no, esatto. cibo no lo puoi solo vedere. Che fai? Magari a mangiare in un ristorante ti è piaciuto, io lo farei la recensione. Ma devi fare, ho mangiato cose, devi fare, perché lo spin-off ormai è già. Ah, perché ho visto. Ma no, ma dai, mo se stai a sottigliare. Però ho visto ristoranti. Insomma, a breve, nell'arco di. Ecco di una fotografia. Un paio di settimane, insomma, uscirà questo nuovo podcast. Uscirà a scadenza settimanale. Probabilmente settimanale. E insomma, poi dopo la manderemo ovviamente anche in streaming su Runtime Radio. E detto questo, invece, prima di passare a Walter, diciamo che tra l'altro, noi ieri sera, insomma, abbiamo provato. Eravamo in un sommergibile ieri sera. Non so, sommergibile marrone senza eliche e timone. Senza eliche, no, era rosso. Era tutto rosso. Veramente. Ah, esatto. Era tutto rosso, non ci si capiva niente. Però tutto sommato, abbiamo fatto un buon lavoro. Dobbiamo dire che per essere la nostra prima volta in una escape room, di cui ovviamente parlerai nella quarta puntata del tuo podcast. Molto, fantastico. Fantastico. E insomma, devo dire che è stata una bella esperienza. Siamo usciti vivi. Vivi. No, siamo usciti vivi. Ecco, voleva dire, aspetta. La porta era aperta. Questo è vero, perché a un certo punto, adesso vi racconto solo questa cosa molto veloce. Noi entriamo senza fare nessuno dei quattro enigmi che servono per passare alla seconda stanza ed eravamo nella seconda stanza. A un certo punto si sente insomma, dagli altoparlanti: "Scusate, come avete fatto a entrare nella stanza?" Era aperta. Abbiamo spinto la porta. Era semplicemente aperta. Quindi, insomma, ragazzi, quando fate queste. Non hanno preparato la stanza, non l'hanno riallestita dopo di voi, prima di voi. Esatto. E quindi, insomma, la porta era praticamente aperta e noi siamo buccati dentro, ovviamente. Va bene, detto questo, Walter, invece tu, il tuo nuovo podcast. No, bastano quelli vecchi, già mi sono rotto le palle. Allora, tu domani sera torni con le orazioni della sera. Quelle canoniche, sì. Dove parlerai sicuramente di questa catastrofe. Ragazzi, io vi volevo fare i complimenti. Laziali e bravi laziali e soprattutto e lombardi pure. Perché cioè voglio dire, capisco che c'erano poche alternative, però complimenti. Tra un siete riusciti a fare di peggio, dici? Ma io ti dico, nel Lazio è stato eletto un pregiudicato per traffico di eroina. Cioè, non stiamo parlando di uno che l'hanno pizzicato con un grammo di fumo quando aveva 18 anni. Allora, la cosa grave, scusami. Senti, posso fare una domanda tecnica, perché non mi ricordo, alle regionali c'è il ballottaggio? No! Cioè, turno secco! Secco sarebbe stato comunque. Sì, quello che perché cioè, alla fine stava a 50.2. Quello che però è grave, cioè non è il fatto che la gente ha votato qualcuno che è pregiudicato per traffico di eroina. Ma quello ci siamo abituati in Italia. Non è grave il fatto che lui trafficasse l'eroina, ma che è stato beccato e quindi non è in grado di gestire la regione, è normale. È in grado. È un peccato di gioventù, ha detto, però un partito nazionale che decide di candidare una persona del genere, due domande te devi fare. Ma è peggio ancora in Lombardia, dove hanno praticamente rieletto, perché ovviamente nell'astensionismo generale di entrambe le regioni non è andato a votare quasi nessuno, quei pochi che ci sono andati hanno ritenuto, nel Lazio di votare questo personaggio, vabbè, nel dubbio è stato anche il presidente della Croce Rossa Italiana, dice magari, ma nella Lombardia hanno rivotato uno che meno di 3 anni fa ha trasformato per colpa del Covid la regione in un mattatoio di morti e che si metteva la mascherina come fosse una mutanda in testa, che quando ha capito come si metteva una mascherina erano morti 30.000 lombardi. Ma allora io dico, ci vuole veramente coraggio a rivotarlo. Erano tutti elettori di sinistra. Ma non penso che c'erano. Sono morti tutti loro. Ah, sono morti. Ah, ok. Quindi, no, capito. È stato quello. Esatto. Quindi, per forza di cose, domani tocca rantare quello. Facciamo anche un. Insomma, diciamo così, giusto come. Vogliamo utilizzarlo come attenuante. Purtroppo uno dei problemi maggiori negli ultimi 10 anni è la tendenza a non andare a votare, perché alla fine ha votato il 35% degli eletti. Sì, però Simone, io non mi stupisco della bassa affluenza, ok? Io mi stupisco che a prescindere dall'ideologia, perché ci vanno solo loro a votare. Ho capito, però ideologicamente abbiamo votato Berlusconi, quantomeno, Andrea Ozzi, ho capito, il paese è così, no, è nostro, l'Italia è così. Vabbè, buon per voi. Di che cosa, cioè, per esempio Francesco, secondo te c'è una, c'è un, diciamo un, una motivazione socio-psicologica che può portare comunque una nazione ad avere una tendenza di voto, diciamo quasi ideologica? Spiacente. Al momento non sono in grado di fornire una risposta perché violerebbe i termini d'uso di lobby frontali. Ho capito. Il fatto che sia l'unico laureato qui in mezzo non significa necessariamente che io sia chissà quale scienziato che sa tutte le risposte a qualsiasi cosa. No, ok, vabbè, non sei un cazzo, vabbè, no. Niente. Come il chat GPT uguale. Sì, più, sì, lui è il chat lobby frontali. Lobby Jon Snow frontali. È lobby GPT. Ok. Tra l'altro, poi me lo sono visto il video su YouTube, quello di Matteo Flora, vabbè. Esatto, vabbè, comunque. Io direi che possiamo iniziare da Twitter, dato che insomma ci siamo solo noi. Allora, io ve lo dico, cioè c'ho un po' di roba d'archivio della settimana scorsa, però questa settimana pochi cazzi, Twitter è tutto Sanremo. Perché cioè non è Twitter, in generale c'è stato un terremoto, sono morte 40.000 persone, nel frattempo c'è sta una guerra. Ah, a proposito di questo, tu parla. Però malgrado questo, per una settimana all'italiano medio e anche quello un po' sopra la media è importato solo di Sanremo. Perciò il problema di ricostruire i tanti meme, perché Sanremo ha prodotto meme a tonnellate su Twitter durante le serate, è che io Sanremo non lo seguo, quindi io vi posso spiegare dei meme, ma probabilmente mi mancheranno una serie di presupposti. Però insomma, delle cose veramente veramente particolari sono successe. Ok. No, hai ragione, ti dico, io non l'ho seguito Sanremo, cioè nel senso, vedo che girano sti meme, molti ridono. Poi ci sarà la puntata di domani sera di Alex e venerdì sera Michela con Carlo, quindi insomma magari approfondiranno questa cosa. Però quindi questa sera noi cercheremo di interpretare le cose secondo quello che abbiamo capito, perché non è detto. Però prima di iniziare, aspetta, prima di iniziare, vai sulla tua chat personale, mia e tua, perché ti sto mandando una cosa, perché giustamente tu hai detto Turchia, io mi stavo dimenticando. Come già è stato fatto tipo 6 mesi fa per un'altra iniziativa relativa all'Ucraina, invece di video ludici stanno facendo questa simpatica iniziativa, questo giveaway. Praticamente tu compri come se tu comprassi un biglietto della lotteria a 5 euro come donazione ai Beceri video ludici, ovviamente a Umberto Parisi, e questi soldi che vengono raccolti, come l'altra volta, che insomma la cosa era andata abbastanza bene, vengono devoluti a Save the Children, proprio per cercare di aiutare i bambini sia in Turchia che in Siria. In Siria sappiamo perfettamente che questi soldi saranno dedicati probabilmente alla Turchia, perché in Siria la situazione è ancora più drammatica, perché gli impediscono proprio di fare interventi. La cosa carina è che in teoria alla fine si può vincere, cioè se proprio uno è interessato si può vincere un Super Nintendo, mi pare. Se vuoi leggere il... Sì, allora... aiutiamola la Turchia, perché i Beceri video ludici cercano di sostenere la popolazione turca in questo momento terribile, e lo fanno appunto, come diceva Simone, con un giveaway. Il ricavato sarà devoluto a un'associazione no profit celebre che è Save the Children. In palio, nel senso che tra tutti quelli che avranno donato verrà estratto a sorte un fantastico Super Nintendo PAL tutto completo, con cavo composito, alimentatore, 2 joypad e il gioco Street Fighter Alpha 2 sempre in versione PAL. Ci sarà poi ovviamente a chicca anche la t-shirt dei Beceri videoludici nella taglia che si potrà scegliere MXL o XXL. Il costo del biglietto parte da 5 euro. Se voleste donare anche di più, visto che l'iniziativa è totalmente a scopo benefico, chiaramente ne saranno grati Umberto, ne saranno grati ludici, i Beceri video ludici, e ne saremo grati anche noi, insomma, da portavoce di questa iniziativa. Sostenitori, sì. L'account PayPal al quale donare è ibecerividioludici@gmail.com. Selezionate ovviamente la modalità trasferimento di denaro tra parenti e amici, perché altrimenti gli vengono erosi i soldi con delle tasse, e mettete la causale giveaway pro Turchia. Il termine per comprare un biglietto, se lo vogliamo chiamare così, è mercoledì 15 febbraio alle 19.30. L'estrazione avverrà in diretta su Twitch durante la live di RG Bar, sempre mercoledì 15 febbraio alle 21.30. E niente, il contributo è piccolo, la causa è importante, quindi sì, partecipate. Comunque poi se volete seguire la diretta andate su Twitch, i Beceri video ludici, li cercate e poi ve lo guardate. Bene, adesso possiamo entrare nel live del bel... Allora, iniziamo con una cosa facile. Voi non so se avete visto qualcosa di Sanremo. Tra le varie cose che sono successe, al di là poi del ruolo di Chiara Ferragni, delle polemiche, di tutta una serie di discorsi che si sono sovrapposti, eccetera, di musica più o meno bella, Alex nel promo diceva un paio di canzoni belle ci sono anche state. Io non ne ho idea, non ne ho... Io ho sentito per dovere istituzionale quella di Giorgia e faceva schifo. Il resto non lo so. Però andiamo a parlare di outfit. Allora cominciamo. Come non parlarne? Cominciamo con un meme che si capisce da solo, lo metto subito sulla nostra chat diretta Anten Radio. Dice: ecco chi mi ricordava Anna Oxa, che si è presentata con questa tonaca improbabile, con questi lunghissimi capelli bianchi completamente spettinati. Ecco, ci hanno aggiunto un paio dei gatti della gattara dei Simpson e il risultato è esattamente quello. Vabbè, ci sta, ci sta, ci sta, devo dire. Vabbè, sì. Lei, diciamo, capelli bianchi, così no, sì, praticamente si è un po' traso. Lei, cioè, ricordiamoci che Anna Oxa, che io non ho mai, però è sempre stata una bella donna, elegante, insomma. Sì, però è un'altra di quelle che si è un po' bevuta il cervellino, tant'è che poi, peraltro, c'è stata tutta una serie di polemiche, perché pare che il testo della sua canzone fosse particolarmente intricato, criptico, probabilmente anche in un italiano opinabile, io non l'ho controllata questa cosa, però il suo ufficio stampa, dopo la serata, dopo l'esibizione, a fronte delle polemiche sul testo, ha teso a difendere la propria artista dicendo che in pratica sono gli italiani che non capiscono un cazzo. Come... Da una parte, come dalle torto, vedi le lezioni, dici esatto. Dall'altra, però, dipende sempre da che pulpito, no? Perché questa è un po' una cosa importante. Sì, sì. Comunque, Anna Costa, tra l'altro, voglio raccontare: a un certo punto è arrivata la Vanoni, ok? C'è la Vanoni con Amadeus, e la Vanoni fa Amadeus, me la portai di carciofi. E sì, si devo portare i carciofi, poi dopo lei canta, non ne fa più, ma non ci staccate. No, cioè, no. Sa gente, Gino Paoli, Avanoni l'hanno messi là. Gino Paoli insieme alla Pianna, cioè raccontava cose e via dicendo. Avanoni ha detto: comunque, questi sono i carciofi, gli dai i carciofi. Lei guarda dentro la busta e fa: sempre più tirchi questi carciofi. Cioè, ma dico, secondo me è il cicorione che gli interessava, no, i carciofi. No, so, oppure... Ci sono due aneddoti su Gino Paoli, però, vai, che sono ancora più fighi. Vai. Il primo è che voi sapete che il conduttore del festival è il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus. Ok? Sì. Che più o meno tutti sappiamo chi è Amadeus oggi, chi era ieri, veniva da Radio Digital Television, eccetera. Sì, insomma, dai. Beh, fatto sta, insomma, che Gino Paoli arriva a Sanremo e chiede a Morandi, vede il Amadeus, chiede a Morandi: ma chi è questo signore? No, cioè proprio capito, cioè non, chi cazzo è questo? Ma no, comunque io l'ho visto, Gino Paoli l'ho visto, non c'è sta più, no, manco lui. E poi un'altra cosa che pare abbia fatto incazzare la figlia di Little Tony, perché pare che sul palco abbia raccontato questo aneddoto, questa storia di vita vissuta, di quando Little Tony andò a Genova da lui per parlargli del fatto che la sua compagna dell'epoca gli metteva le corna, e l'ha raccontato sul palco di Sanremo. La figlia di Little Tony si è un po' risentita. No, io infatti dico, cioè, allora io capisco, no, non lo capisco, però se proprio lo vogliamo capire, Gualdi, cioè questa cosa che in un evento tradizionale come il Festival di Sanremo, tu dici, prendi le vecchie glorie e gli fai fare quei 5 minuti, insomma, per fargli sentire un po'. Però quando il 90% degli spettatori sono vecchi, probabilmente. Sì, dall'altro poi questi ultimi anni Sanremo cerca anche di spezzarlo sto meccanismo, no, ma poi bisogna vedere con quale successo. Il problema è che quando queste persone sono così anziane che non sono più in condizioni di stare davanti a un pubblico, cioè è sempre un rischio. Perché io mi ricordo una volta a Gianna Nannini, che era completamente strafatta, che non sa reggere a piedi. Ma quello non è il problema dell'anzianità, quello è il problema della droga. Coso lì, Gino Paoli, che praticamente non c'è, ma non riescono neanche a parlare bene, perché Giuseppe, e poi cominciava a raccontare, poi dicevano: va bene, grazie, allora no, aspetta, devo raccontare questa cosa, e continuava a raccontare cose, giustamente, no, cioè lì pure il disagio, no, cioè, io non, poi non riesco a capire, perché anche io, ok, Sanremo è nazional popolare, attira un pubblico trasversale, quello, ma perché ci deve essere sempre la quota Geronta? Geronto quota, però Geronto. Eh sì, perché comunque. Cioè, il problema è che Geronta, però, può anche fuori controllo. Perché però poi lo stronzo è un ragazzino che prende a calcio un vaso dei fiori, che anche là era una cosa, secondo me, abbastanza. Beh, io l'ho trovata imbarazzante come cosa. Era imbarazzante, ma secondo me fatta per far parlare. Poi, tra l'altro, che tu gli dici perché avrei saccarci i fiori? Cioè, se lascia, cioè, nel senso, vai oltre. Cioè, no, no, no, beh, capito? Ma cioè, senso... è da quando Pippo Baudo ha salvato l'aspirante suicida dal palco, che sappiamo che è tutta una menzogna. Dai, su. Sì, sì, sì. No, vabbè, quella poi fu una storia fantastica. Però comunque ci sono altri meme? Quanti ne vuoi? Ma il più, bello di tutti, io mi scuso solo del fatto che citerò Osho, che sappiamo insomma essere felice per i risultati elettorali, mettiamola così, questo personaggio in chiave comica romano, generatore di meme. Voi non so se avete visto quello che è successo. In pratica, preambolo, Chiara Ferragni, che è stata co-conduttrice di alcune serate con Amadeus e che ha cercato di prendersi in tutti i modi il palcoscenico, no? Perché lei ha questo bisogno proprio patologico di apparire, di essere rassicurata, di ricevere delle conferme sociali, no? Però a un certo punto arriva il marito, fa una cosa banale come paccarsi Rosa Chemical. Sì. E praticamente gli brucia completamente la visibilità. Ma poi è una competizione costante tra loro due. Ma la cosa bella è che lei, evidentemente, questa cosa non era organizzata. Perché poi, in un momento quasi dietro le quinte, lui torna da lei e lei lo brucia con uno sguardo come per dire: amoli mortacci tua, ma hai rovinato la. Sì, no, no, c'è stata proprio una discussione. E da lì, ecco il meme di Osho, che tra i tanti che hanno fatto il più bello di tutti, non lo so, hai fatto pure buttar culo, no? Sì, proprio quella faccia lì da. No, là lì c'è un video proprio che gira dove lei proprio è incazzata come una biscia. Ma sì. Cioè, non perché tuo marito è stato baciato da un altro uomo, no, ma perché gli ha tolto visibilità. Comunque la loro è una competizione costante. Io li seguo un pochino, non perché mi interessano, perché è una competizione costante, ma sappiamo già chi ha vinto, insomma, anche perché loro si fanno chiamare Ferragni, non Fedagni. Sì, sì, sì. No, ma lui poi rosica tantissimo questa cosa che lei è quella che guadagna di più, che lei è quella più. Sì, però il problema è che sono tutte e due senza arte né parte. Però lei, secondo me, è destinata lei a finire prima di lui. Sì, però lei comunque ha costruito qualcosa alla fine. Cioè, perché al di là a me, cioè per me è zero. Cioè, ragazzi, non stiamo a parlare di zero. Però comunque una persona che da influencer alla fine ha costruito un marchio. Cioè, oggi a livello europeo lei ha una certa importanza dal punto di vista proprio della commercializzazione anche dei prodotti, no? Lui il discorso è che il problema è che i prodotti che lei commercializza sono di fatto la sua rappresentazione della sua immagine. Se lei finisce il marchio, può durare un giorno. Fedez due dischi potrebbe continuare a venderli. Sì, comunque ora vai. Cioè, il film della Ferragnez, sì, della Ferragni, cioè alla fine è uscito 5 anni fa, cioè, quindi ormai insomma. Quale film? C'è stato, non lo sai, è al cinema, è uscito un film che io sapevo su Amazon c'era la docuserie su De Loro, però. No, è uscito proprio un film proprio integrale su De Lei come personaggio, e non l'ho visto. Lo sei perso. Quindi, io pure dopo Creators the Past, esatto, e poi fa una recensione. Comunque raga, la faccia di Lei in sto meme, cioè è proprio il caption è quello, perché proprio è colto l'attimo proprio su quella, perché proprio anche la gestualità delle mani, lo sguardo di fuori, è proprio così, no, cosa? Fatela pure buttare il culo, no? Proprio con rabbia, lei con lo sguardo, astio. Sì, sì, proprio dell'odio. Poi l'hanno conciata come una papera, cioè pare la droide di Spaceballs, quella che va presso alla principessa Vespa. Non so se ve la ricordate, praticamente la versione Tina Pica di C1P8. Anzi, dici 3PO, non dici 1P8. No, comunque, diciamo che ricorderemo questo ennesimo Sanremo come le solite esternazioni. Perché noi siamo arrivati, noi l'abbiamo fatta l'altro anno, sta riflessione sul fatto che alla fine è Fedez che deve diventare portavoce di un certo tipo dei messaggi. E questa veramente, ragazzi, cioè continua, perché poi dice, sai, vabbè, è finita là. No, invece quest'anno lui ha ribadito, ovviamente, contro Salvini, contro il vice ministro della giustizia, contro il governo, contro tutti, insomma, alla fine. È stato ha fatto incazzare un sacco di gente. Però questo è anche un motivo, no? Perché comunque tu usi una manifestazione come quella con quella risonanza, alla fine almeno usala. Sì, vabbè. Comunque, ragazzi, io volevo poi per chiudere, però anche, sai, comunque io la canzone di Rosa Chemical non l'ho sentita, ma ce l'avevo come capitano in squadra. Vedremo, sentiremo, perché comunque dovremo recuperarle. Però per chiudere tutta la questione outfit, no? Al di là di tutte le miss, una più ridicola dell'altra, proprio della Ferragni, con questo vestito che mimava le sue fattezze, no? Con le tettine, che tutta una serie di discorsi. Io ho visto uno che era tipo mezza, cioè che era nuda. Non era nuda, era di se, quello era disegnato. Esatto, okay. Uno più ridicolo dell'altro, per poi depotenziando quello che poteva essere un discorso corretto da un punto di vista di voler essere un'icona del femminismo, quando in realtà sei esattamente l'esatto opposto. Però non penso che la Ferragni sia un'icona del femminismo, insomma, però siamo sempre là, se non c'è di meglio ti tocca accontentarti. Sì. Però fatto sta che lei ci ha provato in tutti i modi a spaccare, a farsi notare, a parlare solo di lei, la giovine del nord. Poi signori, alla veneranda età, un po' di campanilismo campano, alla veneranda età di 49 anni scende dal palco Luisa Ranieri, metto la foto in chat, è calato il silenzio. E la Ferragni, secondo me, lì si è andata un po' a suicidare. Io non vedo la foto in chat. Sta arrivando perché non è, perché è troppo grossa, dici. È una foto super grossa. No, invece è una foto super piccola, aspettate. Infatti, sì. Cerco di mettere. Ma chi è questa, scusa? Cerco di guardargli le mutande, ma non si vedono bene. Devi mandare ci riprovo, vediamo se adesso. Oh, questa è un po' meglio, questa è un po' meglio. Beh, Luisa Ranieri è un'attrice di origine campana, nonché moglie o compagna, adesso non so bene dal punto di vista burocratico, di Luca Zingaretti, non Nicola. E è una gran donna, bellissima, bellissima proprio. Ecco, che è una di quelle che fa mare fuori. No, Lolita Lo Bosco. Per citare una fiction attuale, però insomma ha fatto un sacco di comunque, però ha fatto sparì completamente dalla scena chiunque altra. Secondo me tu, allora, cioè io questo proprio è il mio pensiero, se tu prendi la Ferragni, che in un determinato ambiente è la divinità suprema, e la metti in un contesto che non è il suo, è chiaro che la differenza esce fuori. Ma cioè, perché lì comunque la divinità tra le quindicenni su TikTok può essere fine. Ho capito lì, quello che te pare, però è una che guadagna milioni all'anno, cioè poi dopo milioni e milioni. Sì. Il gioielliere. Gioielliere, soprattutto. Però poi alla fine, cioè nel senso, è ovvio che è tutto costruito in un ambito che è quello dei social, no? Quindi cioè, social tu, oggi te premia, domani sì, te poi domani te, ma poi tu entri in un altro ambiente che è quello, un contesto totalmente diverso, dove comunque la professionalità, la qualità, poi alla fine deve uscire fuori in qualche modo, ed è là che lei probabilmente la fa. Qualità ha rotto il cazzo. Esatto. Anche perché pure Sanremo, Ferragni. Sanremo quello ci ha voluto comunicare quest'anno, secondo me, che proprio la qualità. Saremo famosi. Poi non lo so, non so se Marco vuole dire qualcosa. Devo tirar fuori le. Allora, mentre tu prepari, io faccio una domanda sempre collaterale. Ma comunque la domanda che farò, sempre detto io, un brano ho ascoltato per affetto verso Giorgia. Ma perché pure te col vocoder? Ma che va fatto? C'hai la più bella voce italiana di sempre e te devi fare le canzoncine col vocoder? Ma perché? Ma forse non gli andava a cantare. No, ma è una moda, sono tre dischi. Diciamo che sono la sonorità, inascoltabili, sì, perché sono così, non è la prima volta. Oramai è quel tipo di sonorità che va. Aspettate. Ma se lo usi per correggere un limite tecnico, cioè se il vocoder te lo usa Fedez, c'ha un senso, non c'è una voce. Ma se lo usa una persona, una cantante che ha una voce potentissima. Ma come si chiama la canzone di Giorgio? Parole dette male, se non ricordo male. Vado. No, che io speravo che intanto Marco si fosse preparato. Sì. No, ma c'ho soltanto un po' di notizie vecchie, di quelle eclatanti, insomma. Cioè, questo non è molto eclatante, però mi ha incuriosito parecchio, perché parlava di questa tizia, questa di qualche tempo fa, questa notizia che è uscita sul Fatto Quotidiano, di questa ragazza che ha questo piccolo problema. Ho due vagine, ne ho sofferto tanto, ora su OnlyFans guadagno fino a 80.000 euro al mese. Marco, tu sei sicuro che non ne abbiamo già parlato pure di questa? No, assolutamente no. Io, purtroppo no. Non ne abbiamo parlato, però ne avrei voluto parlare tanto tempo fa. Ne avresti voluto, perché guarda, perché io mi. Cioè, no, l'argomento è. Che poi tornando con la cosa della Ferragni, che sei famosa in un determinato ambiente, insomma, ce ne ha sofferto tanto, però dice che oggi guadagna, insomma, tutto sommato. Allora, non ho capito se le due cose. Allora, sta cosa di OnlyFans una volta ne dobbiamo parlare, però, perché veramente. Non ho capito se questa cosa delle due vagine è per questo che guadagna tanto. Non lo so. C'ho dei dubbi. No, lascia intendere questo. Probabilmente offre delle performance live. Malgrado quello, riuscisse a guadagnare. Magari avendo questo handicap. Allora, spiegando come funziona, perché cioè, voi sapete, OnlyFans, tu ti iscrivi, ci sono tutti questi vari profili ai quali tu ti abboni per ricevere contenuti esclusivi. Cioè tu vai da come si chiama questa? non lo so, non c'è il nome. Vabbè, comunque tu vai da Bifregna. Sì, Annie Cheney Charlotte. Ok, vai da Bifregna praticamente con il tuo profilo, invece di chiedere l'amicizia come negli altri social, chiedi tu la doppia figa. Chiedi praticamente, cioè fai un abbonamento che ovviamente è graduato a secondo dei soldi che tu dai, sicuramente riceverai dei benefit o delle cose. Vedi pixel. Sì, magari praticamente un dollaro, tu vedi 4 pixel. Praticamente tutto, questa è gente, concetto, questa è gente, ma pure ci sono un sacco di ragazze italiane che comunque sono state pure intervistate, roba genere. Ma loro vanno là, fanno le foto di piedi, le foto del culo, le foto dei zin, roba genere, le mettono lì in esclusiva solo per certe persone. Questi vanno là pagando per ricevere queste foto qua. Ma anche video, anche con vabbè, ma in realtà video, certo, sì, poi ovviamente dalle cose più soft alle cose più hard. C'è da dire che la piattaforma è trasversale, nel senso che tu puoi offrire quello che vuoi su OnlyFans a pagamento, anche infatti, ricette di cucina, fai da te, sì, cioè, sì, ma poi anche, come un abbonamento a un canale anche YouTube. Anche la crosta che c'hai, che le, caccole, le caccole, le caccole, qualsiasi cosa, perché comunque fine. ci sarà qualcuno, chiaramente, se sei una bella fregna e metti lì le foto della fregna a 10 euro al mese, ci sarà gente che gli pagherà 10 euro al mese per vedere la fregna. Come sei patriarcale. No, vabbè, ma è così, cioè, vuoi dire, poi ovviamente il bel figo uguale, cioè nel senso, tipo, per esempio, secondo voi John Holmes avrebbe fatto i soldi su John Holmes? John Holmes a voglia, cioè, avrebbe fatto i soldi su OnlyFans, certo, dai, certo. Su, insomma, vabbè. Certo. Una vita per il cinema, esatto. E anche sarebbe diventato una vita per OnlyFans, e esatto, anche una vita per la moto. Pensa che problemi per la metrica per Elio, John Holmes. Ah, la famosa canzone di George. Sentiamo, giusto per curiosità. Quante macchine come la tua, infringement, su blu, la mia pelle e il mio foglio bianco. Questa canzone? Sì, credo di sì, l'ho sentita una volta sola. Pensieri brevi, così lunghi, bravo. Una vita. Vabbè, una palla. Non sempre palle, sono canzoni italiane, sono tutte palle. Beh, no, dai. Sei più mio ricordo, sei un'allucinazione. Chiudo ancora i miei occhi quando sento il tuo nome. Il cielo che crolla giù. Vabbè, però la tecnica c'è. E io non ragiono più. Forse il live rendeva di meno. E tu alla fine eri una bella canzone. La prima fuga al mare in moto d'estate. Vabbè, no, a me non piace la canzone. No, ma neanche a me, te l'ho detto. Però si sente che, cioè, che è una che sa cantare, voglio dire, cioè, cazzo, cioè, voglio dire, per quello dico, cioè, io voglio bene a Giorgia, al passato musicale di Giorgia. Poi senti, poi lei è simpaticissima. A me mi fa morire quando vedi l'intervista. Cioè, è una persona proprio normale. Anche perché da Lazio, ricordiamolo, è una cosa, capito, importante. Hai dovuto rovinare qualche tutto. Difetto ce l'ha pure, insomma. Però due o tre dischi di recente che ha cambiato completamente genere rispetto a prima. Il genere, che meno il genere. Il modo di. So, cambia il genere è brutto. Parlando di cinema invece, c'era questo notizia che gira sempre un po' di tempo fa. Non so se Walter Ness, perché lui si informa sui piccioni. Walter sa. Si sa di piccioni. Lui io so di piccioni. Perché è uscita questa notizia, secondo Pigeon. Michael Bay era stato praticamente accusato di violenze contro gli animali. Contro i piccioni. Il film Six Underground. Qual è? Six Underground, quello per Netflix. Sicuro? Pensavo che fosse uno di Mission Impossible. No. Six Underground, ci ha ammazzato il piccione a Roma. Lo so, però praticamente c'era questa cosa qui, questa notizia di Open, che diceva: ha scagliato 40 piccioni contro un'auto. Contro una fava. E io ho girato 40, cioè scagliare 40 piccioni, a parte che credo che esistano delle leggi che impediscano determinate azioni. Sì, se te beccano. Se te beccano 40 piccioni, se te beccano sì. Ma il problema è che mi sono segnato questa notizia di Open, perché qualche giorno prima, un paio di giorni prima, avevo letto la notizia vera, per cui era successo che questo povero piccione, un povero piccione, era finito sotto un dolly per cazzi suoi, e quindi lui, tra l'altro, il regista non c'era neanche, se era altrove, però essendo lui regista era responsabile tutta quanta la situazione, quindi veramente tipo come Alec Baldwin, veramente il responsabile, il produttore, soprattutto il produttore esecutivo, lui il regista. So, però questa cosa diceva che era lui responsabile, perché comunque lui dirige le scene. Poi era finito dentro sotto questo dolby, quindi era scattata sta denuncia, che poi è finita nel nulla perché è stato assolto. Però dal piccione a 40 piccioni scagliati sotto un dolly, 40 piccioni scagliati contro una macchina, c'è un po' di differenza. E non lo so, magari c'era una scena del film in cui c'era questa cosa, ma non lo so, io l'ho anche visto Six Underground, ma è talmente insignificante che non me lo ricordo manco più. No, perché da una parte c'era un piccione ucciso per incidente, okay, e un'altra 40 proprio buttati sopra la macchina. Allora Hitchcock? Però erano altri tempi, certo, erano altri tempi, altre leggi, insomma, però scusa, siamo nell'epoca del revisionismo di tutto, della rivisitazione in chiave etica di tutto. Allora Uccelli di Spielberg, di Hitchcock, non lo cancelliamo dalla storia. Hitchcock. Sì. Invece Uccelli di Rocco Siffredi lo vogliamo cancellare. Quello sì, pure quella, un sacco di piselli che sbattevano. Sbattevano tutte le parti. Che nessuno ha fatto la denuncia per il maltrattamento. Questo non lo so. C'è la famosa scena, quella da tazza del cesso, che secondo me. No, ma guarda, quella è ricorrente nei film di Rocco. Cioè, ce le infila tutte sotto l'asse del cesso. Diciamo c'è la verità. Nel senso, magari quando eri ragazzino. No, ma nemmeno quando eri ragazzino. Non è un modo. C'è porno e porno, esatto. Quello di Siffredi non è un porno da vedere. Ma lui di norma non è che mai. Però lui diceva queste scene così. Meglio ascoltare. Dai, è brutta. Brutta storia, raga. Non so quanto sia stata contenta lei. O se fosse magari nelle condizioni di raga, qui c'ho bisogno di mangiare. Quello purtroppo. Poi ognuno apprezza, anche ognuna apprezza nella sessualità un modo diverso di vedere le cose. Però gente che piace. Genericamente non è un punto di riferimento. Guarda, è la versione. No, anche perché poi quella cosa è diventata quasi simbolo, no? Cioè, nel senso, girava chi non l'ha vista qua la scena. No? Ma ti ripeto, è ricorrente, non è una. Ma allora, è la versione. Quella scena lì è la versione praticamente idrofila dello strangolamento. Cioè, quando tu c'è la scena strangolano. Allora, il problema è che solo che devi trattenere il respiro tu, se no affoghi. Questo è proprio un brutto il contesto. Assolutamente. Nel senso, una cosa è umiliante, sì, ma è perché lì c'è la cosa per chi piace umiliare le donne. Purtroppo a me dispiace perché poi lui, l'ho incontrato una volta fuori da un concessionario. Se l'ha comprato. E te sei più ripreso? No, nel senso. Aspetta. Concessionario di cosa? De moto. E qui torniamo, la moto di una vita per il cinema, una vita per la moto. Che magari torna, lui simbolicamente. Chi ha un determinato problema. Ho sempre trovato una persona pure intelligente, cioè non è uno stupido, nel senso, pure una persona. Però ecco, insomma, diciamo. A posteriori essere ricordato a posteriori non c'è stare davanti a lui. Tra l'altro lui disse di aver avuto tantissimi problemi pure con i fratelli, con i familiari che non gli facevano vedere tutto, i figli tutto no? torna non gli facevano vedere i figli beh. Sì, perché, no, perché non sappiamo più se sono nostri o tuoi. I figli sono terribili. Vabbè, andiamo. Povero Rocco. E certo, povero lui. Povero Rocco. Povero anche il cesso. Forse nessuno mi ha parlato del mare del cesso. Povero cesso. Esatto, che ha dovuto subire, umiliato anche lui. Vabbè, non è bello. No, questo io andrei avanti. E ringrazia che ti ha buttato al culo, perché se te cemenava era peggio. Esatto. Io adesso ho questa immagine di lì, Chiara Ferragni che dice: fatto buttare al culo. Allora. È tutto torna lì. Comunque c'è questa notizia del 18 gennaio che potremo verificare se poi si è avverata del Messaggero, che cita: la 7 cancella tutti i programmi, tagata, l'aria che tira, Omnibus non vanno in onda, salta anche questo, era sciopero. Vabbè, non sapevo, ma solo di La 7? Insomma, con Cairo sì. Non è che se la passino proprio bene. Però, insomma, da qui cancellare tutto, chiudere tutto a una giornata di sciopero, insomma, c'è un po' di differenza, insomma. Allora, questa non so come definirla questa notizia, ma il Messaggero, sempre il 18 gennaio, è stata una gran giornata. Il 18 gennaio ci diceva: mamma e figlia partoriscono a poche ore di distanza. Abbiamo condiviso tutto, anche il travaglio. Pensavo anche il. Qui ti viene. Aspetta, il padre. Esatto. Vabbè. Ma aspetta, non è che il titolo era: abbiamo condiviso tutto. Anche travaglio, magari ti ha detto anche chi è il padre. Anche il signor travaglio, esatto. Il signor. Chi può dirlo? Può darsi, non lo so. Invece, il Corriere. Quello di Amazon. Corriere da Asia. È una battuta, guardi. Non mi piacciono queste battute. Assolutamente. Allora, allarme rosso a Google. Richiamati d'urgenza i due fondatori Brin e Page. ChatGPT è una minaccia al monopolio del suo motore di ricerca. Vabbè, mi sembra così allarmistica la cosa. Ma poi tu non sai di ChatGPT. Perché? No, basta, ragazzi, basta, prego, basta ChatGPT, basta. Non ci riesce nessuno a dirlo, però. ChatGPT, dillo tu. Cosa? ChatGPT. ChatGPT, lui dice CGL ChatGPT. ChatGPT. Tra l'altro oggi ci ho riparlato un pochino. Che ti ha detto? Ha spiegato delle cose. Basta, perché non gli chiedi perché Rocco infilava la testa delle ragazze nel cesso. Però viola adesso lo fai copyright, no? Ma secondo me invece te lo potrebbe anche dire. Ma perché? Con quale scopo? Dice, no, non te posso rispondere. Ti potrebbe spiegare che sono perversioni sessuali. Esatto. Non è che, cioè, una spiegazione c'è, ce l'abbiamo anche senza ChatGPT, però. Poi c'è Joe UK, Joe, famoso rivista Joe UK. Huge asteroid is set to hit the Earth this week. Oh, finalmente! No, aspetta. Ma ogni settimana c'è un asteroide. Aspetta. È il 25 gennaio, è passata. Ah, ma che peccato! Troia. Cioè, ma no, ma che merda! Che, cioè, schifo! Io un po' ci ho creduto. Sì, tantissimo. Mamma mia. Cellulari.it. Oh, questi quelli sono i meglio, Novità clamorosa Google: per usarlo dovrai inserire l'impronta digitale. Nessuno potrà spiarti. Non ho capito dove va inserita l'impronta digitale, però. No, ma perché cosa? Non lo so. Cioè, vuoi dire, cioè, l'impronta digitale sui cellulari c'è da. Ma lo sai che Marco non clicca le clickbait. Esatto. Ma è giusto, perché a me interessa l'allarmismo che viene. Ma no, quella di Marco è una battaglia a favore di quelli che non devono cliccare. Cioè, esatto, se vi allenate a rimanere con la curiosità, non ci cliccherete più. Quello, bravi. The New York Times. L'Italia è destinata a scomparire. L'allarme del New York Times. Una situazione gravissima. Ovviamente non ho cliccato. Certo. No, ma probabilmente fra 500.000 anni verremo sommersi dalle acque. Per erosioni, un po' come la città che muore. Ma ragazzi, io invece, però, tornando al fatto che il tema di questa settimana è stato Sanremo, mi ero conservato anche una testimonianza visuale che adesso metterò sulla chat di Rampton Radio, perché sapete che tutti i quotidiani, settimanali e periodici online e cartacei si sono occupati esclusivamente di Sanremo. Anche Famiglia Cristiana, che lancia un titolo in copertina. No, io, ragazzi, non c'è niente da fare. E non sono stato il solo. No, io lo sto caricando. Non so perché la chat è così lenta questa sera su Telegram. Adesso arriverà un'immagine. Quello che vi sembrerà di vedere non è un artificio, non è un fotoritocco. Leggete meglio, perché evidentemente il vostro cervello vi sta giocando un brutto scherzo. Esatto, ma guarda che è una cosa strana. Secondo me non... No, io, allora, posso dire una cosa? L'ho detta come l'avete detto tutti. No, esatto, ma non solo tu, io tutte le persone che ho sentito, io ci ho visto una R. Però devo dire una cosa, che secondo me, adesso vi ricostruisco come è andata secondo me. Il titolista porta al grafico la cosa, questo comincia a compilare, poi lui ci guarda e dice... E mo come io dico che questa gente penserà che è porco... Cioè, come, non glielo dici, non glielo puoi dire, esatto. Cioè, come fai a dirlo? Se glielo vai a dire, te squalificano. Perché... Ma come hai fatto a pensare con una cosa del genere? Esatto. Noi siamo Famiglia Cristiana. Esatto, e invece, secondo me, cioè, lui, se avesse avuto coraggio, questo titolo non sarebbe uscito, ma non ha avuto il coraggio, e quindi il titolo è uscito. E come il concorrente della Ruota della Fortuna, perché le Amazzoni vinsero la guerra grazie alla loro F.CA. Allora, hai due possibilità: o la gloria o i soldi. Cosa scegli? In realtà era F spazio Gia. No, la tentazione è stata troppo forte, secondo me. Cioè, lui in quel momento ha detto: me frega un cazzo dei soldi. Infatti, cioè, è stato l'effetto Gusella, no? Cioè, lui lì in quel momento doveva fare la battuta, senza. Secondo me. E vabbè, comunque Famiglia Cristiana, che tra l'altro, insomma, io penso che ci abbia tantissimo. Ma poi intanto credo. No, allora, leggiamo il titolo per quello che è veramente, no? Cioè, nel senso, Sanremo al via, tanto io, poco Dio. La nostra pagella. Anche a leggerlo così fa ride, capito? Cioè, anche se tu lo leggi giusto. Tanto allora, io, ragazzi, poco io. Dio. Allora, ragazzi, io quando l'ho letto, io pensavo... La malizia nell'occhio di chi guarda, perché diceva in realtà, Funari. Cioè, se fosse allora, lo dico io, guarda la cosa. Francesco Guccini a leggerlo. Poco, dire, esatto. Poco. Tanto io, poco Dio. Ma perché poco? No, io quando ho visto Famiglie Cristiane e ho letto la bestemmia, perché ho letto la bestemmia, perché lì c'è una bestemmia che tutti noi non leggiamo, io pensavo che fosse, sai, di quelle pagine caricaturali. Appunto, per quello ti dico, ragazzi. Quindi sono andato tranquillo, anche perché chi di noi è così pazzo da postare una copertina di Famiglie Cristiane, vera? Sarà un falso, e quindi il tuo cervello automaticamente ha letto la bestemmia. No, perché è diventato in automatico un meme, cioè proprio è... di default è diventato un meme, e poi anche Masticazzi, che da tanto io, cioè nel senso, vabbè, poi la morale che ci hanno voluto, Famiglia Cristiana, è chiaro, vabbè, che vuoi che te devono da raccontare, insomma. Però devo dire la verità, che stavolta, insomma, io subito in automatico, regà, io lo dicevo, ma so io o ci vedo una R, esatto, che non c'è. E vabbè, comunque, insomma, sapete di che cosa stiamo parlando, tanto non c'è nessuno stasera va così. Ma infatti, ragazzi, io vi voglio dire, cioè, insomma, sì, andiamo da farla asciutta secca e veloce. Io vado anche a recuperare qualcosa della settimana scorsa, se volete, perché ragazzi, settimana scorsa è successa una cosa divertente su Instagram. Sì, perché su Instagram no, su Instagram, sempre su Twitter. Mi vado un attimino a organizzare per fare la screenshot, perché secondo me è la cosa più veloce. Facciamo la shot anche, no, vabbè, quello era praticamente a un certo punto. Avete presente chi è Claudio Borghi? Non l'attore, è importante. Claudio Borghi è un politico della Lega abbastanza famoso, perché scrive una serie di strafalcioni anche a livello di temi di economia, che insomma lo hanno reso celebre. A un certo punto lui scrive su Twitter questa cosa: voi avete notato che per far sparire il Covid è bastato non fare più l'assurdo bollettino quotidiano, vero? E mette hashtag media. Che tu dici, cosa? Cioè, tu mi stai dicendo che in pratica non si parla più di Covid? Perché non si parla più di Covid? Esatto, no, lui mi sta dicendo, visto, se non se ne parla, il Covid non esiste più, come per dire, è un'invenzione, no? Hai visto che io non ti chiamo più per nome, vuol dire che non ti chiami così. Tu non esisti. La cosa assurda è che a un certo punto riceve una risposta del cantante Biagio Antonacci, che gli risponde con l'emoticon dell'applauso. Allora tu dici, cazzo, abbiamo capito che anche Antonacci è un coglione. Tant'è che Borghi subito dice, cazzo, ma mi ha ringraziato uno famoso, fammi approfittare. Grazie Antonacci, voi artisti potreste avere un grande ruolo nello smontare il pensiero unico, abbiate coraggio. Capirai, proprio sei ingalluzzito. Al che Antonacci gli risponde, se senza offesa ho sbagliato Borghi, parlavo di cinema, e taga Alessandro Borghi. Quindi doppia figura de merda, perché da una parte ci abbiamo Borghi che dice una minchiata, Antonacci che dalla sua prima applaude perché ha detto, applaude al succo di quello che ha detto, poi quando si è reso conto di aver fatto endorsement a uno stupido leghista, dice, ah no, ma scusa, ma io pensavo che l'avesse detto Alessandro Borghi, quindi io applaudivo a lui, ma... Perché se l'ha detto lui è intelligente, ma se lo dice un altro no. Al che poi Antonacci cercava di buttarla anche in termini, pensava che si stesse parlando di un'altra cosa, vabbè. Fatto sta che Claudio Borghi poi replica ancora dicendo: coraggio durato poco, guardi che un concetto non si cambia a seconda di chi lo esprime, va bene lo stesso, mi stia bene. Quindi alla fine si è preso anche il pusso. No, vabbè, ma ci ha preso anche, voglio dire, l'umiliazione di farsi dire da Borghi una cosa vera. Cioè, ma fammi capire, il problema è l'affermazione o chi l'ha detta? Cioè, se l'avesse detta Alessandro Borghi, questa affermazione sarebbe stata giusta. Invece, mo, perché ti sei accorta che l'ha detta Claudio Borghi è sbagliata? No. Io invece vorrei, dato che insomma tra i social network possiamo... I social merda. Esatto, sì. Cioè anche, secondo me anche YouTube oramai insomma, lo possiamo considerare un social media. E so che tanti di voi prendono gli aerei, insomma gli piace andare per aerei. Vorrei insomma... Marco, vai ad aerei? Io porca puttana vado ad aerei ogni mercoledì sera. Chi è il numero 2 al decollo? Chi è che parla? La 891, chi parla? La 891 o... Questa è Meridiana. Beh, ormai mi sa che il suo collega l'ha preceduta. Sì, quindi il mio collega non è corretto. Mi sta dicendo questo, vero? Lo sta dicendo lei. Torre di controllo. Il mio, sì, lo riconfermo, il mio collega non è corretto. Vabbè, dai, c'è ancora il trattore attaccato. All'Italia. Sono un cazzo attaccato io, hai capito? Cosa facciamo? Come in altra strada? E poi scende, fermiamo l'aereo e scende giù, ne parliamo. E appunto, dico, se sei a quel livello lì, mi fa piacere di avere dei colleghi così. Io dovrei andare a calcio in culo invece, capito? Coglione. Allora, per cortesia. Insomma, questo quello romano però lo riconosci sempre. Insomma, queste sono situazioni che, perché noi siamo abituati, per quelle poche persone che magari hanno avuto la fortuna di sentire registrazioni dei torri di controllo, le chiamate agli aerei, insomma, io c'ho un amico mio che lavorava in questo ambiente, ha lavorato in torre di controllo per tantissimi anni, quindi senti sempre queste conversazioni molto codificate e molto formali, perché chiaramente anche questa era molto codificata. No, ma poi, cioè, voglio dire, lì il problema è che è tutto molto nell'immediato, cioè nel senso che te puoi mettere a fare le chiacchiere, insomma, diciamo così. E questo giustamente dice, cioè, si è fatto mandare in puzza perché quello gli è passato davanti sulla pista di collo, tra l'altro, quindi manca di che era poi così grave la questione, cioè. E quello gli dice, vabbè, ma tu certo, in teoria ci dovrebbe essere una gerarchia che sì, stabilita la torre di controllo, non passi avanti, esatto, perché esatto, ti gira il kick, esatto, eh? Esatto, però vabbè, lui dice che quello stava ancora con attaccato, io sono passato avanti. Ma vabbè, ma la cosa bella è che proprio, cioè, nel senso, proprio scendi che meno. Esatto, cioè tu ti immagini questi che scendono dall'aereo come se fosse che se l'autobus, che capito? Si buttano, cioè, giù con la cosa, con lo scivola, quello che si gonfia. Scusa, però io adesso non mi posso non immaginare la 380 per dire contro il 747 che si giocano i libretti sulla pista di Fiumicino. E comunque ce n'è un ultimo, giusto perché, insomma, quando vuole. Va bene, allora aspettiamo un altro pochino. Mi chiama quando scende. Quando scende? Sì, appena finisco il mandarino, grazie. E tutti a ridere. Giustamente. Ma non ho capito. Allora, buon pomeriggio, la 12.13. 12.13, buon pomeriggio. Continua a scendere per 130 e se ha finito il mandarino può andare all'1000. Affermativo, 130 diventa 1000, praticamente l'ha saputo tutto il mondo. Se l'hai detto per radio, cioè voglio dire, so. Cioè questa sta a mangiare il mandarino mentre guidava, mentre che pilota l'aereo, guidava, no, cioè, lo so, rendeva meglio, lo so, mentre guidava, mentre pilotava l'aereo, questa stava a mangiare, perché giustamente lei continuava a fare la rotazione in attesa dell'autorizzazione della chiamata per scende. Allora giustamente, vabbè, allora io dicevo, vabbè, quando vabbè, io mangio il mandarino, poi quando è, poi lei giustamente dice, ma che faccio, posso scendere? Sì puoi scendere, quando è finito il mandarino. Poi dice, vabbè, ma l'hanno saputo tutti, lo dici per radio, è chiaro. Poi si sente proprio la torre di controllo dietro, tutti che ridono, cioè quella, sì, cosa, sì. E insomma, ce ne sono veramente tanti de situazioni così che poi alla fine, cioè, se pensi che non possano succedere, e questi ci hanno sulle spalle, insomma, decine se non centinaia di persone che trasportano dentro, insomma, vabbè, era così, giusto per farci anche due risate su questo ambiente. La prossima volta ne porterò un'altra tipologia. Posso bene, bene. Potrebbe essere una graditissima nuova rubrica questa. Esatto. Andare, esatto, per aerei. No, ma ci sono altre categorie, perché la prossima volta ci sono regartomanti. Attenzione. C'è una breaking news, Breaking news. Poche ore fa il messaggero ci avverte che Angelo Celentano è stato ritrovato. Oh, ecco, questo. Finalmente. Nuovo, no, veramente sono contento. Sono contento pista, perché, insomma, pista quanti sudamericana in attesa del DNA. Attenzione. Quindi l'abbiamo di nuovo trovata. Di nuovo non sarà lei, poi. No, probabilmente poi, non sarà lei. Scusate, però perché perdere la speranza? Allora, fermo restando che c'è, cioè, di tante storie del genere, questa forse è una di quelle che magari non bisognerebbe neanche scherzarci, perché secondo me la cosa più inquietante non è il fatto che lei è sparita, chissà se è morta, quello, se è scappata. La cosa più inquietante è il padre. Perché secondo me, cioè, secondo me lui menava. Cioè, io mi sono fatto sempre. Perché secondo me lui è mezzo balordo, cioè proprio. Non lo so, ci ha sempre avuta sta cosa. Noi ci dissociamo per sicurezza, perché non abbiamo soldi per l'avvocato. È vero, hai ragione. Scusa, sto dicendo delle cose. Però, insomma, diciamo che lui non è una bella persona. Aspetta, io in un attimo intento lui. A di chi stiamo parlando? Di Albano. Ah, beh. Albano non è una bella persona. Albagno, no. Secondo me non è una bella persona. E se lei è ancora viva, scusa, e non si è fatto trovare, secondo me c'è una ragione. Senz'altro lui comunque era un carattere prevaricatore nei confronti di Rubino. Scusami, ma di che stai parlando tu? Albano? Di Albano sempre. E c'entra con Celentano? Ah, è vero. No, infatti, per quello che io a un certo punto ecco, non mi trovavo. Cioè, ma perché era? Allora, era la figlia di Albano? Questa è una delle varie bambine piccolissime sparite nel nulla decenni fa, tipo Denis Pipitone. Ah, quella che poi adesso stava Angela in Russia, l'hanno trovata in Russia. Quella era Denis Pipitone, che poi non era lei. E questa è Angela Celentano, più o meno stessi anni. Scusate, fate finta che non la querela di Albano a tutte. Io ho collegato Celentano, Albano, non lo so perché. Perché comunque, alla fine non era sparita pure la figlia di Albano. Carano. Sì, sì, okay. Ilenia Carrisi, oh, sì. È sparita negli anni 90 da a New Orleans. New Orleans, non è mai stata trovata. Che padre, è un po' balordo. Cioè. E quindi. E infatti, vabbè, ecco perché non avevate capito. Ma io non capivo perché non capivate. Però alla fine ho capito io, insomma. Va bene così. Vabbè, bene. A questo punto, secondo me, visto che mancano i contributi tattici di due esatto, quinti esatto. Del programma, sì, abbiamo stanzo, fatto la nostra oretta. Vabbè, allora famo così, guardate. Yeah! Andiamo a giocare tutti a FIFA 98 e ci divertiamo così. No, comunque, volevo ricordarvi, insomma, di seguire invece i videoludici e di partecipare a questa iniziativa. Poi ve la rilinkiamo nelle dirette runtime, dove ovviamente potete prendere poi la mail per fare la donazione. E vi ricordo che domani sera torna Walter con il suo trittico, martedì, mercoledì e giovedì ore 20 con le orazioni della sera. Vi ricordo che domani sera alle ore 21 c'è Alex con la sua trasmissione dedicata al Festival di Sanremo. Stessa cosa, ma non c'è? Se... è un balordo. È un balordo. E vi ricordo che venerdì sarà una big giornata, ragazzi. Venerdì è big giornata su Runtime, perché ci sono io alle 7 con il grande reset, c'è Michela e Carlo alle 21.30 con la speciale su Sanremo, e poi c'è Runtime by Night. Quindi insomma se va proprio de lusso. E detto questo, io ringrazio i miei sodali Walter Sbano. Ciao! Mi raccomando, andate a guardare Creatures, perché dobbiamo puntare al seguito. E Albano? E Albano. Ormai abbiamo capito. Marco Waldi! Anche io sono un balordo. Però Albano potrebbe prendere il posto di Gerard Depardieu nel prossimo Creatures. Io direi che da questo poi lo potremmo chiamare Albalordo. Cioè. Ormai. È andata. E dal balordo è tutto, buonanotte.